Assolutamente, purtroppo è così. Io la verità mi sono fatto da solo, perché io ho iniziato che non avevo niente, avevo solo i soldi praticamente del lavoro che facevo quando ero sotto la dipendenza degli altri. Eppure ho iniziato e nonostante tutto ho sempre comprato tutto quanto in contante, Claudio. Perché? Perché ho avuto sempre quella fissazione, perché era una fissazione e una idea e un'educazione che mi ha dato mio padre. Tu non devi mai comprare niente a debito, perché il debito diventa sempre più costoso. Se un domani disgraziatamente hai qualche problema anche di salute, non puoi far fronte al debito. Dunque, se non hai i soldi, non comprare, compra sempre in base a quello che puoi spendere, senza mai andare lì a buttarti, eccetera, eccetera. E invece gente, io ne ho sentito tanto di quei colleghi falegnami come me, prendevano i soldi, ce n'era uno una volta lì, vabbè, è stata di vecchio, zona via università, io dico così per non dire il punto giusto, no? A un certo momento va questo cliente, è contratto una cucina, fagli completamente i mobili di tutta la cucina, gli lascia un acconto, le lascia, e lui appena preso i soldi, ha trovato un amico, si è andato a Genova e si è speso i soldi del materiale che aveva preso in acconto. A un certo punto questo lavoro non l'ha mai potuto iniziare perché soldi non ne aveva mai, non ne aveva per comprare materiale, a debito non gliene davano perché ormai era segnalato dai fornitori del materiale e dunque non poteva fare niente. Quando ho cominciato il cliente a vedere che non arrivava mai questo con lavoro, allora andava più volte in falegnameria da lui e lui mi ha chiesto, ma allora a che punto siamo con questo? Adesso inizio, non si preoccupi, se ho avuto da fare e così via. Per farla più corta, dopo tante volte che lui era andato, ci andavo addirittura tutti i giorni questo per sollecitarlo, aveva un ragazzo che gli ha detto, ascolta, fa una cosa, mettiti sulla porta, quando vedi che quello lì sta arrivando, avvisami, dimmi che non ci sono. Va bene, dice, va bene, d'accordo. Lui aveva un armadio vecchio che lo stava restaurando e ha fatto una specie di capanna, chiamiamola così, di barriera, mettendo le ante e i fianchi tutti uno insieme all'altro, no, praticamente ha fatto una specie di separì. Quando mi ha detto, mica sta arrivando, mi prendo e dimmi che non ci sono. Prendersi, si è inchinato lì dietro tutto quel paravento, diciamo, e questo signore ha detto, non c'è il principale, no, è uscito. Ha fatto, ma quando, chi è che chiude qua? E da chi viene lui a chiudere? Vabbè, allora aspetto. Quando era vicino a lui, la voleva chiudere, si vede quanto era stanco lui di stare inchinato dietro, chissà come si è mosso, ha toccato uno dei fianchi o sportello che fosse e gli si è rovesciato tutto e è uscito lui arrabbiato. E lei, quando il ragazzo gli ha detto che non c'ero, se ne doveva andare, chi tu cosa vogliava? Più che devi stare, tanto per dire il seguito, poi lo puoi capire, no? Io me lo sotterrato, mi sarei veramente sotterrato, che vergogna. Ma così c'era la gente che faceva così, prendeva i soldi, a me è successo con una macchina, stai attento, non è che è successo a me personalmente, con una macchina, una concessionaria che oggi non c'è più e tra l'altro, poverino, non c'è più, dico poverino perché non è morto né di malattia né di niente, si è sparato, capito? Dai debiti che aveva e da tutto quello che doveva restituire e fare, si è sparato. Ok, una persona molto conosciuta a Sassari, aveva una concessionaria di macchine, ma non solo, a me è successo così, avevo dato l'anticipo e questa macchina non arrivava mai, perché? Perché i soldi che prendeva, ma non solo da me, da tutti, se li giocava a carte, se li giocava a poker, questo è il quanto, capito? E qui quindi rimanevano chi aveva dato l'acconto per la macchina, non arrivava mai, lui non poteva far fronte, anche perché alcune concessionarie, non tutte, alcune concessionarie non gliene davano. La mia era una macchina della concessionaria che a lui non dava, non posso farti i nomi, e quindi sono rimasto a bocca asciutta. Per tirarla breve, quando ho saputo che lui si è sparato, è uscito anche il giornale, insomma, una cosa del genere, una persona molto conosciuta, io a quel tempo avevo perso 5 milioni. Figuriamoci, non è poco. Purtroppo è così, di questi individui se ne trovano tanti, ce ne sono stati tanti e ce ne saranno ancora, ce ne saranno, perché è gente che vive così di queste cose qua. Non è possibile, guarda, non è possibile, no. Non sono mai stato io delle capita, magari dai, già avrei fatto una bella figura, sì, cioè, quando uno sarebbe venuto a chiedere i soldi, perché magari non avevo pagato qualcosa. Ah, ti inanda, non ti inandi. Io prendevo tutto, tu puoi chiedere a chi vuoi, puoi chiedere a signor Corda, quello della strada Legnami, puoi chiedere a Palmieri, puoi chiedere a Gattebale di Biase, a Canna, stato quando ho comprato, a Pirino, dai, vediamo ti piace. Ho sempre comprato il materiale in contanti, perché l'unico modo per tirare avanti era quello. Quando io ho il materiale in bottega ho il lavoro sicuro, perché dipende solo da me, se fanno o non fanno, siccome io avevo voglia di farlo, lo facevo e guadagnavo i soldi. Ecco qual è il trucco. Se invece tu i soldi te li spendi, poi non hai più o i soldi per comprare materiale, perché magari devi comprare una macchina nuova, non va bene, no, assolutamente, è ancora oggi così, è la stessa idea, la stessa mentalità c'è la mia moglie, guai a parlare di razze, per carità, non è possibile, assolutamente, le cose si fanno una per volta, quando uno può fare, fa, e oggi grazie a Dio ti posso garantire che io posso fare, e posso fare molto, ma non a livello di una lavatrice o di un frigorifero nuovo, no. A livello di qualche altro appartamento, addirittura di due, volendo, premesso che ne ho già due, più il magazzino, eccetera, ma non ce l'ho io, c'è la mia figlia, perché ormai è intestato tutta lui, lì, per dirti com'è la situazione, purtroppo è così, io qua, e cosa ci vuoi fare, d'altronde, la vita, non tutti la conducono alla stessa maniera, vai. Bravo Giulio, bravo, in gamba, sì, bravo. Paga la cella, le tasse per te, le case che hai. Sì, beh, cosa stai facendo? L'orecchione. No, buonasera a tutti, sono entrato e sono al lavoro. Va bene, buonasera a tutti. Ebreco. Mi ha centrato Roberto, eravamo io e Giulio discutendo un po' delle cose che sono state fatte. Ciao Eugenio, buonasera anche a Roberto. Giulio, ti ho detto che tra me e te ci sono pochi discorsi da fare, sono fatti, sono quelli, non c'è niente da dire, da aggiungere. Io per l'età che ho dato tutto quello che ho dato, capito? Sono nato da niente, fatto da niente, imparato il mestiere da niente, e quindi va bene così. Però ripeto, sfido a chiunque a fare tutto quello che ho fatto io ed essere già a casa a grattarti le balle a 62 anni, capito? Quindi il discorso è questo, non c'è niente da fare. I soldi, quando uno li ha messi da parte, ce li ha, se non li mette da parte non ne ha. Quindi mando alle ciance, è così e basta. Bisogna avere la testa sul collo, te l'ho già detto. Avanti Roberto, buonasera, ciao anche Eugenio. Sì, ciao Eugenio, ciao Claudio, ciao Giulio. Tutti salutati, un abbraccio grande, dai Giulio. Ciao Roberto, me l'ha arrivato, levo il 4, ti devo sgridare perché ci è arrivato un pochino in ritardo. Sto scherzando naturalmente, ci mancherebbe altro, oh Roberto. Vai Eugenio per salutare a Roberto. ciao amico mio Roberto, buonasera anche a te. E comunque sfido a chiunque a arrivare alla mia età posizionato bene come sono posizionato io. Ma io non devo fare sfida con nessuno oggi. Quello che ti voglio dire io è che ho fatto tutto da solo. Non ho mai mandato mia moglie a lavorare, non l'ho mai mandato. E dunque tutto quello che è a casa l'ho costruito io con le mie due braccia, grazie a Dio. E dunque è quello che sono riuscito a realizzare, è sempre merito mio, naturalmente anche con la collaborazione e il consiglio di mia moglie. Però gli introiti monetari sono solo ed esclusivamente miei. Vai Claudio. Vabbè, ci mancherebbe altro, così è. Poi ci abbiamo, vedi, anche in comune, oltre alla mentalità, tutto quello che abbiamo fatto, eccetera, nonostante sia più piccolo di te, ma il discorso non cambia, te l'ho già spiegato, perché uno più uno fa due. Abbiamo in comune anche quello delle mogli, capito? Mia moglie non compra niente senza soldi, ma è una formicola, capite? È una formica, perché lei è figlia di Tiresi, capito? È figlia di Tiresi. I soci erano così, la stessa cosa, hanno sempre conservato, hanno lasciato, guarda che ci hanno lasciato un patrimonio, i miei soci non è differente. Noi abbiamo un terreno, una casa ittica a Caparreto per fare un pacco di soldi e stiamo aspettando, perché c'è in ballo il passaggio della nuova strada qui di Vespruppio. Sta trattando, non io, sta trattando mio cognato, lui è appunto in mezzo a queste cose, è stato in politica eccetera, quindi se ne intende più di me, sta trattando l'esproprio, quindi penso che anche lì ci sia una bella cifra da recuperare. Perciò sto dicendo, mia moglie è così, uguale alla mamma, era babbo, precisa identica, mai compra senza soldi, mai messo rate, mai nulla. A volte quando gli ho detto, vabbè, non prendiamo questo, facciamo, no, quei soldi servono per altro. Ma guarda che me lo danno un tanto al mese, anche se non voglio dormire tranquilla qui e là, capito? Quindi abbiamo in comune anche la mentalità delle mogli, immagina già dei due. Vabbè, Robin Hood, vedi Roberto vive di vendita, che problemi ha? Però scusate, poi vi lascio un attimo. C'è anche un'altra cosa, che ai tuoi tempi, ai vostri tempi, le cose si potevano anche fare, perché c'era la lira, qualche cosa da parte si poteva anche riuscirvi, e poi un'altra cosa, la cosa più importante, c'era lavoro, ce n'era tanto, quindi le cose si potevano fare tranquillamente. Il problema è oggi che non c'è lavoro, tutto lì, è quello il fulcro della questione, e non c'è lavoro, e i ragazzi purtroppo non riescono a concludere niente perché non avendo lavoro non hanno soldi. Prima era diverso, e prima le cose si facevano, e come si faceva? Si potevano fare perché c'era la lira valeva, allora l'euro, non si comprende più nulla, e le cose vengono fatte neanche la metà di quello che si faceva un tempo. Oggi nel 1990, ma io te lo dimostro quando vuoi, a te, a chiunque, perché c'ho le buste paghe, nel 1990 la Saras a Cagliari, a San Rocco, io prendevo 2.800.000 lire, hai capito? E in 5 anni mi ho comprato la Gaza, 54 milioni a Carbonazzi, perché era una cooperativa, hai capito? 2.800.000 lire nel 1990, quindi penso che non ci guadagnato di no, penso che ci travagliato. È così, però come diceva Giulio, la mentalità anche di quegli anni, c'era la gente che aveva la stessa età mia, ma non pensava a fare quello che stava pensando Claudio, pensava a cambiarci la macchina ogni anno, capito, a farci le vacanze a Punta di Manicomio con i Tribongiani. Io non ne ho mai fatto vacanze, mai in vita mia, ancora oggi ho vacanze, non ne ho mai fatto, perché io non devo dare a mangiare a nessuno, capito? adesso, vacanze, io non le voto, ando a mare che ando a giù, andiamo, ma c'ho qua a casa, non vado a buttare via 5, 6, 7 mila euro per farmi 20 giorni a punta di manicomio, magari si nafutti, me ne tengo a busciacchere di là, vai Roberto. Sì, sì, sono d'accordo con te, c'è gente purtroppo che deve fare esibirsi. Tu non vedo ragazzutti appena il primo stipendio, la prima mensilità, subito la rata per comprarsi il BMW, cacchio. Non vai mercoledì a Papigni e ti compare il BMW. Non sono molto d'accordo in questo discorso qua. Io le ferie me le faccio e me le faccio alla grande. Ho fatto viaggi, sono stato un po' in giro per tutto e non ho mai... Perché non ho molto, non ho altre cose da pagare, quindi me lo posso anche permettere. Avendo avuto un mutuo o altre cose, sicuramente avrei ragionato come stai ragionando tu qua, però arrivare a una certa età e dire che scemo, potevo farlo e non l'ho fatto, quello mi dispiacerebbe un po'. E poi io a 15 anni mozzo in Tirrenia, prendevo 6 milioni al mese. Vai, fatto un blu, vai, 15 anni dura ancora, pesate la cadera, vediamo la babodoia, mamma doia, vai, finisce la gira, stiamo parlando di cose serie qua, ma nessuno ti dice che tu le ferie non te le puoi fare, io non è che non me le potevo fare, no, perché non avevo i soldi, io a casa me l'ho comprata in contanti nel 1990, hai capito, mi sono sposato nell'87, capito, nell'87, anzi, nell'87, nel 90 c'avevo già la casa pagata, quindi vedi tu, capito? Oggi come oggi, non è che posso andare in ferie, posso andare a Rio de Janeiro, ma non ci vado perché non mi interessa, non è una passione che ho andare a buttare via i soldi perché me devo fare 15 giorni di vacanza, non mi interessa a me personalmente, capito? Ma non perché c'ho molto mancanza di soldi, io non aggiungo a nulla nessuno, non aggiungo molto, adesso la mia è pagata, esci, capito? Non ce n'è problema, il problema è che proprio non mi nasce andare a buttare soldi per andare a fare le ferie, a me personalmente, poi io rispetto le idee degli altri per carità, ognuno è libero di fare quello che vuole, a me proprio non mi piace andare fuori a girare, a fare, no, non me ne affutti nulla, una volta eravamo fidanzati con mia moglie, siamo andati ad Agrigento, ai tempi di Agrigento, siamo andati a Taormina, siamo andati a vedere un po' la Sicilia perché è un'isola che mi piace moltissimo e basta, qualche volta sono andato a Roma per le radio, devo ammettere che qualche fiera me la sono andata a vedere, a Genova, a Milano, a Novegro, ma cose così che piace vedere, che piace capire, sapere, ma non andare a farmi riferire, capito? Assolutamente, io d'estate sono stato sempre in Sardegna, non sono mai uscito dalla Sardegna, a prescindere, capito? Vai Giulio. I soldi bisogna saperli mantenere, perché se no guai, se uno si lascia prendere la mano per certe cose non basterebbe mai quello che guadagna una persona, ci mancherebbe altro. Purtroppo è così, lo sappiamo benissimo, però diciamo che ognuno di noi le proprie soddisfazioni se le ha tolte ed è giusto anche che se li tolga, però non deve essere una cosa continua e esagerata, anzi non deve diventare un vizio, il problema è quando diventa un vizio le spese pazze, quello allora non va bene assolutamente, nella maniera più assoluta, quello no. Bisogna sapere importante soldi, perché i soldi non amano nessuno, e si guadagna con tanto sacrificio, e prima bisogna pensare alle cose concrete, alle cose che effettivamente occorrono, no a sperperarli così con le macchine o... Giulio lo sento, però 9.25. Continuamente cambiati gli oggetti o le cose. Più o meno. I mobili, questo, no, i mobili di Levano, una volta va sempre, e che li fai io, vabbè, ho avuto quella fortuna che me li sono fatti io, per cui non ho speso più di tanto, però sono stato pagato un'idea. Io a casa ho due scale in legno, che sono quelle due scale, valgono 20.000 euro, solo le scale in legno, che tanto per dare un'idea, una che sale dal salone alla zona notte, l'altra che sale dalla zona notte alla mansarda, per dirti, oh, tanto per darti un'idea. E uno, se fosse stato un piccolo panino qualunque, sprecando, non credo che sarebbe. è riuscito a farmi una casa come ho fatto, che la casa mia vale 300.000 euro, mi è stata valutata anche da poco, è venuto uno di quelli che passano in giro e me l'ha valutata 300.000 euro. Ma io ti ho fatto io 300.000 euro, andando, perché questo è il territorio e ci voglio vivere io qua. Casomai ne possiamo parlare per un altro appartamento che ho, però al momento non te lo posso nemmeno far vedere perché è occupato da una persona, e dunque quello mi rende anche, per dirti come sono le cose, avanti io, dove? Se è passato Giulio, però c'era sempre questa portantina che ti dava un po' di fastidio, non so se la portò Torre, l'ha sentita Oggetto? La voglia. E comunque, io lavoro da ragazzino di 15 anni, d'estate lavoravo e d'inverno studiavo. Capito? Non so che cavolo, non ho mai attaccato alle gonne né di babbo, né di mamma e né pantaloni di babbo. Ricordate. Io non ti stai dicendo niente, io avevo 16 anni, ma a 58 anni, a 57 anni, io sono andato in pensione, Eugenio. Quindi carta canta, capito? Quando io sento questi discorsi, io ho iniziato da ragazzino a lavorare, a me non mi stai dicendo niente. Carta canta, quando uno inizia a lavorare a 15 anni e sei ancora travagliente, te ne vuoi già andare, c'hai i contributi e te ne vai. Con i contributi non serve l'età, capito? A me non mi è servita l'età, perché con 41 anni e 6 mesi di contributi io mi sono già andato. Non mi è servita a 67 anni, capito mi hai? Quindi quando io sento queste cose, male avete fatto e siete andati a lavorare senza a farvi assicurare. Mamma diceva sempre ai miei titolari di lavoro, che riconosci a tutti, a chi mi accompagnava ETA a travagliare, capito? Perché non c'avevo macchina, non c'avevo mezzo, diceva sempre, Giovanni, mi raccomando, tu pagali l'assicurazione a mio figliolo, di macchetti, diceva mamma, pagali di macchetti. Lo stipendio, io avrò l'orgoglio a mio figliolo, non rimanca nulla, lo già per la domenica, quando a farci di cose giovi. L'importante è che tu li paghi i contributi, chi so che sia importante ma un domani, non so importante ridinà, sempre così era. E mi sono trovato a 57 anni, con 41 anni e 6 mesi di contributi. Hai capito il problema, Eugenio? No, ma io non sto dicendo niente, io ti sto dicendo che ne ho già 31 anni di contributi, contratti, cioè 31 anni fatti, cioè sulla carta ce li ho, perché li ho fatti controllare, ce li ho, quindi anch'io non ti devo fare che non sono stato lì, non ho mai lavorato in nero, mai. Perché questi parassiti, che io li ho sempre chiamati così e continuo a chiamarli, sfruttavano anche la gente, hai pienamente ragione, però tu tieni conto che io avevo 25 anni quando mi sono sposato e avevo già la casa mia, oggi avevo già la casa mia, perché io e mia moglie lavoravamo, siamo da ragazzini assieme, lavoravamo tutte e due, mettevamo da parte, ci siamo iscritti in cooperativa, abbiamo dato tutti gli stati di avanzamento, perché in cooperativa funzionava così, dove abitavo io prima, quella era una cooperativa, poi è stata sciolta ed è stata chiamata condominio Edera, ma quella lì sono nate tutte come cooperative, capito? E nell'87, quando ci hanno consegnato la casa, hanno voluto la differenza, 54 milioni sono stati cacciati sia da me che da mia moglie, vuol dire che non siamo stati così stupidi come c'è tanta gente, capito? Che aspetta che muoiano i genitori per prendere l'eredità. Io sai quanta eredità c'ho tra Porto Torres e Alghero da parte mia, e quanta eredità c'è a mia moglie tra Sassari e Itteri, tu non ne hai idea, però non funziona così, questo che stavamo parlando con Giulio. Bisogna rimboccarsi le maniche e non far sì che si dipenda dai genitori e che si diventi parassiti, capito, sfruttando quelle povere persone che hanno lavorato una vita, che sono andate in pensione e che tu vuoi di Napa andati a rubare di sigaretti, ma vai a cagare, vai robè. Guarda, io fin lì te l'appoggio, cioè sono pienamente d'accordo con te. Io comunque ho 48 anni, quindi capito. Tu ancora mi difendo bene, nel senso che non sono mai stato diciamo sulle spalle dei miei genitori, perché ho sempre lavorato sin da ragazzina. La casa me la sono fatta, non ho mutuo, non ho niente, e qua è tutto mio. Le altre case sono venute dopo, e adesso come adesso mi sto divertendo, perché lo posso fare, mi sono levato gli sfitti delle moto, mi sono levato, che oltretutto ce li ho, mi sono levato lo sfitto di camper, che tuttora ho, e ho altri vizi. Ma perché? Perché ti ripeto, non ho più niente da pagare, ho pagato tutto, quello che mi il necessario, cioè non il necessario, le cose primarie, che ci vuole una famiglia, io ce li ho, quindi a casa non mi manca niente, prima le cose essenziali, poi tutti i vizi. Così sono fatto, questa è l'impronta che mi ha lasciato mio padre. E quindi vedi bene che ragioni come stiamo ragionando noi, ma tu cosa pensi? Che io ne ho 62, quindi sono più grande di te, tu pensi che io a 48 anni non mi sia divertito come ti sei divertito tu? O che mi mancavano i soldi per cambiare la macchina ogni 2 anni? Assolutamente, ho avuto tantissime bellissime macchine, ho avuto moto, ho avuto tutto, capito? Però poi basta, non mi serve più niente, quello che ho fatto, a 62 anni, ti fermi, finito, ho una bella casa, due piani, ho tutto quello che mi serve, non sto lì a elencare, ho quello che mi serve, ok, sto benissimo, però ho 62 anni, cioè, all'età tua, anch'io mi sono divertito, ho avuto le moto, macchina e moto, due macchine e due moto, tutto quello che serviva, però allo stesso tempo abbiamo pensato alla famiglia anche, come hai pensato tu, capito? Perché se la casa ce l'avevo già, era tutto a posto, era la mia, è chiaro che ti diverti, come ho fatto io, come stai facendo tu adesso, ok? Poi fai una scelta, dire io mi sono rotto 40 anni in condominio, quindi fai una scelta, allora inizi a macinare, cosa faccio? Perfetto, posso fare questo perché mi permette di fare questo, ok? Così ho fatto, ma ti fermi un attimo, cerchi di capire, cerchi di sapere, cerchi di fare una cosa meglio di quella che avevi, e ti fermi, però io all'età tua mi sono divertito lo stesso, non mi è mai mancato niente, non è che non ho buttato via soldi, attenzione, forse ne ho buttato anche più di te, ok, perché io ho anche l'hobby della radio, che me la porto dal 1974 oggi, e ti posso garantire che con tutte le radio che ho comprato, Giulio ne sa qualche cosa, forse non un grande appartamento, ma un appartamentino mi sarebbe uscito, quindi vedi bene che di soldi ne ho buttato anch'io, però non si può morire dentro, come la canzone, non è che ti puoi privare di prenderti una cosa che ti piace, o di mandare avanti un hobby come il tuo, no? O un piacere come il tuo, ti piacciono le moto, ti piace il camper, ti piace quello, eccetera, è chiaro che lo devi fare, hai la possibilità, lo fai, io l'ho fatto, non sto ricriminando niente, per carità, stiamo parlando di quelle persone che vivono ancora all'età tua o all'età mia, addirittura alle spalle dei genitori, quella è la cosa vergognosa, capito quello che ti voglio dire? Nel modo più assoluto, io ti conosco, so che sei un grandissimo lavoratore, quindi tutto quello che hai, quello che hai realizzato, quello che hai fatto e quello che stai facendo, te lo stai sudando e te l'hai sudato, nessuno ti può dire niente, io mi riferisco a quei parassiti che non fanno niente dalla mattina alla sera e che stanno in giro dalla mattina alla sera con i soldi in tasca dei genitori, quelli sono parassiti, vai Giulio. Appunto, adesso ti ho spiegato proprio chiaro che cosa intendevamo, stavamo parlando io e tu poc'anzi a Eugenio, certo, ma lo sappiamo benissimo che Eugenio è una persona seria, questo non ci sono dubbi, ci mancherebbe altro, è meglio se ti vuoi divertirti, è il tuo sudore, dunque fai come ti pare, ti piace, ci mancherebbe altro Eugenio, certo, è quello importante, però quello che stavamo dicendo noi è che non deve mancare niente alla famiglia nella maniera più assoluta, per cui il sacrificio che abbiamo fatto sia io sia Claudio e tantissime persone che hanno lavorato come abbiamo lavorato noi e come stai lavorando tu ancora oggi, è quello vuol dire essere uomini, vuol dire non fare parassiti a spalle dei genitori. magari a 50 anni ancora, chiedendo i soldi delle sigarette ai genitori, perché lui non è andato mai a lavorare. Ma vogliamo scherzare? Sono queste le cose brutte di un uomo, di una famiglia, ma non solo di un uomo, ma anche di una donna. Per cui vedi bene che il discorso forse tu non l'avevi sentito dall'inizio, per cui non avevi capito perfettamente quello che intendevamo dire noi. È così, la vita è così. Va bene, io vi devo lasciare, sono alle 8:05, passate e scendo giù per la cena. E poi tra l'altro c'è da dire anche una cosa, io personalmente non ho mai ereditato niente da nessuno, mai, nemmeno dai miei genitori, mai e poi mai. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto sempre con le mie capacità, per cui il sacrificio è totale dal ragazzino di 10 anni, per l'esattezza 10 anni e mezzo, una cosa così. Perché andavo a scuola e andavo a lavorare sino al diploma da geometra, e poi non mi sono mai fatto l'esame di stato. Dunque non sono geometra, ho solo un diploma ma non ho l'attestato di merito, perché per fare geometra ci vuole l'esame di stato, che io non ho mai fatto. Perché? Perché nel frattempo poi c'era mio padre che era diventato invalido, e a casa, io essendo anche il più grande di tutti in famiglia, dei figli, 7 figli tra l'altro, quindi c'era bisogno di soldi e c'era la collaborazione di tutti, sia la mia che quella dei miei fratelli più piccoli, per cui abbiamo portato avanti la famiglia anche in quel modo lì. Tu mi dirai, ma tuo padre poi era anche pensionato? Certo, mio padre poi alla fine era anche pensionato e prendeva addirittura 3 milioni al mese di pensione, perché prendeva la pensione del lavoro e più un'altra pensione, perché era purtroppo aveva perso la vista, per dire come stanno le cose. Però noi non siamo andati mai. Arrivo, capito? Il telefono mi hanno fatto chiudere per scendere giù, e stavo dicendo, però non siamo andati mai a fare del male a nessuno, né io e mio fratello, e tutti noi i figli, miei genitori non fanno più, è di nuovo. Arrivo! Oh, ma è incredibile! Vabbè, ci saluto e ci sentiamo! Ciao! Ti prendi qua! Ciao Giulio, ciao! Ah, io non ho di questi problemi, già mi chiamano quando è pronto, sono qua in stanza, capite oggi? Avevamo un discorso molto molto serio, nel senso che tante persone pensano di aver fatto chissà che cosa, e poi che cosa hai fatto? Non hai fatto niente, hai vissuto una vita a casa di tua madre, quando ti sei sposato, te ne sei andato magari a casa dei tuoi suoceri, oppure ti hai preso una casetta in affitto, non hai realizzato niente oggi, è questo il discorso che avevamo. Sì, ma io volevo rispondere a te, i parassiti, quindi io mica lì posso puntare il dito, io più che altro punterei il dito contro i genitori, che a una certa età le dicono, bello ti svegliare, qua le cose stanno così, cioè c'è già un'età avanzata a poterti soffrire da solo, diciamo. Perché la madre che si tiene un figlio a 40 anni ancora a casa, che si sveglia a mezzogiorno, io sono d'accordo con te, un parassita, però io potevo farlo, perché tu sai benissimo che lavoro faceva mio padre, e a casa non è mai mancato niente, però mi ha sempre fatto capire il valore del sacrificio, no? Quindi mi ha lasciato, mi ha inculcato una certa cosa, nel senso che li vuoi questi 10.000 lire il sabato per uscire? Sì, ok, li vuoi, ma tu durante la settimana non hai i mesi a mezzo lì, capito? E quello che mi faceva capire, mi ha insegnato a dare il giusto valore ai soldi, ok? E per quello che poi io ho iniziato da ragazzino a lavorare, perché mi piace, come tutti piacevano i soldi. Non si studiava ed è stato, diciamo, faceva stare giù i terreni, qua, là, capito? Quelli, hai ragione, sono parassiti, però io do più la colpa ai genitori, che le permettono di fare i parassiti. Io sono d'accordissimo con te, perché anche io ho fatto la stessa cosa. Io purtroppo sono stato orfano di babbo, che eravamo tutti piccoli, e mia madre ci ha indossato i pantaloni e ci ha insegnato veramente come si vive, come si viveva, perché tutti, capito, tranne le donne che studiavano, rimanevano a casa. Ma io e mio fratello abbiamo iniziato a lavorare da piccoli, anche mio fratello è già in pensione, c'è un anno in più di me. Come l'ho entrato all'ASI 38 anni fa, poi lavorava anche all'ENI, che allora era CIR, e quindi accumulato, è andato in pensione, è andato in pensione proprio a marzo, mi sa, cioè di cosa sto parlando, siamo a novembre, è andato in pensione a ottobre, il mese scorso è andato in pensione, capito? Il 30 ottobre è andato in pensione Antonello, infatti ci abbiamo la festa domenica, che ha voluto fare in concomitanza col mio compleanno, perché il 20 io faccio 62 anni, capito? Cioè, sono d'accordissimo con te, però io li definisco parassiti, loro, poi i genitori hanno il 70% di colpa, il 50% di colpa, perché non sono stati bravi a far capire a un figlio di 40 anni che bisogna andare a lavorare. Io capisco, perché ho alcune persone che purtroppo devono fare assieme ai genitori, perché uno è invalido, capito, e quindi diciamo legge 104, hanno l'accompagnamento, devono stare assieme ai genitori, questo non lo metto in dubbio, quando c'è un handicap tanto di cappello, però quando i genitori stanno bene e hanno soprattutto i soldi, i genitori viziano i figli. A me mia madre non mi ha mai viziato, né a me né a mio fratello, assolutamente. Abbiamo iniziato a lavorare da ragazzini, perché intanto perché era un nostro obiettivo lavorare per non farci mancare niente, non chiedere niente a mia madre, perché anche lei lavorava, era bella al nautico, e quindi insomma, ma grazie a Dio non le mancava niente, perché mamma ancora oggi c'ha tre case affittate, quindi non è che gli mancava niente, capito? C'è una buona pensione, sta bene, non gli manca nulla, però non ha fatto mancare niente neanche a noi, e ci ha insegnato quello che hai detto tu, il valore dei quattrini, il valore della vita, perché se un genitore non ti insegna quello, tu diventi un parassita oggi. Io vedi che tu mi accogliti il cuoio, che la colpa non è la mia, se io rimango a letto fino a mezzogiorno e c'è mamma e babbo che mi porta il vassoio per fare la colazione, questa non è la mia. La colpa è del genitore che non mi prende per l'orecchio e mi dice, oh bello bè, e non di bisogno, non devi andare a lavorare, se fai il lavaglio, fa che cosa, non mi dici tutti i bici. Non so, però purtroppo ci sono ancora questi genitori, che permettono ai figli che succeda questo. Nel mio caso non è successo, nel modo più assoluto, perché come hai detto tu, la stessa cosa diceva mia mamma, capito? E lo sai che i portodurresi sono portodurresi, ma hanno una mentalità molto, molto seria, e ci ha insegnato il valore della vita e il valore dei quattrini, non speculare, mettere da parte, un sacco di valori a me mi ha insegnato mia mamma, un sacco, capito? Però ti ripeto che ragionava come ragionava tuo padre, e video, ma è sabato, esci, ma sì, esco, di nanna, sì, ce li ho, non c'è problema, capito? Invece al contrario cosa succedeva? Devi sì, e di nanna, no, ma, e quindi ti hai travagliato, ti hai arrebato, no, e tanto mi sa che non esci, tu a chi di nanna io non te ne rogo, hai capito? La stessa cosa io ho insegnato a mia figlia, mio G, mia figlia ha iniziato a 14 anni a lavorare, hai capito? Studiando all'istituto alberghiero, e lavorava a sala e bar, si vazia un culo a Madonna senza essere pagata, e oggi che c'ha 35 anni ha una posizione, perché ha iniziato a capire, quello che gli ho insegnato io, il valore della vita e il valore dei soldi. Becca, ea, registrato, è normale, da un albero di mele ne esce mela, capito, se si tolgono poi diventa quadrato, è così, le basi poi si vedono. Io ti ripeto, io ce l'avrei più contro i genitori che contro i ragazzi. Poi ti ripeto, sono d'accordo con te che chi deve stare a casa per ovvi motivi, perché ha magari a casa qualcuno che non sta bene, allora quello è proprio un altro discorso da mettere a parte, no, quello non si può avere nemmeno il discorso. Però il tipo che se ne alza a 10:30, 11, mezzogiorno e ti dice, cosa posso, non fai travaglio, e cosa vuoi, il travaglio venga tu cattivaianna, se l'hai preso. Questi sono discorsi che io molte volte prendo a lungomare con amici, no? Che mi prendevano per il culo a me, quando io mi fottevo le estati lavorando in Tirrenia, capito? E loro facendosi l'estate a Malai e io a bordo, capito? Lavorando. E mi prendevano per il culo, però adesso sono disoccupati, perché? Perché la zona industriale ha chiuso e quindi stiamo aspettando, aspetta e spera. Questi sono tutti i discorsi che prendo con degli amici a lungomare, no? Quando magari ci passano, ci troviamo, non sto lavorando, sì, ho finito adesso, tu sì, ti la futti, io me la futto, ma non ti lamenti più. Non ti lamenti più, quando tu riprendi un gaga a lungomare di più, e io non vedo blu più, a chi è in Tirrenia. Non ti lamenti più, e tu mi dici, magari tu guardi il linguaggio, che dai. Adesso ti sei da lavoro. È così. Che così non c'è niente da fare, sono d'accordissimo con te, però ripeto, ribadisco che ancora oggi, nel 2021, ci sono genitori che permettono ai figli di rimanere a casa, di non fare niente dalla mattina alla sera, capito? E dargli anche i soldi per il sabato e la domenica, andare a briagarsi e andare a fare ciò che devi fare, capito? E quello è il problema, cosa che nella mia famiglia non è mai esistito, mai e poi mai, assolutamente negativo. Avanti Antonio. Beh, capo, buonasera a tutti. Oh, yeah. Sempre travagliato oggi, mamma mia, e so fare anche altri lavori, chi ti manda rovati non fa zeninunta, per carità. Come oggi mi sono riuscito alle 4 di mangiare, sono dovuto radare poco fa, alle 7:30, campato un uomo, oggi proprio mangiato. È così, ti ho detto che io ho sempre lavorato fuori dalla mia città, fuori Porto Torres e fuori Sassari, un anno e otto mesi sono entrato a Porto Torres all'Enichem, che già era Enichem, ma perché? Perché stavamo facendo il depuratore dell'Asi, stavamo costruendo il depuratore dell'Asi e quindi ero lì per lavoro, ma poi costruito quello, io ho ripreso la mia strada, sono andato a lavorare negli altri depuratori, la mia azienda mi spostava in tutta la Sardegna e dovevo viaggiare, capito? E ti ripeto, quando ero a Cagliari, alla Saras, io uscivo lunedì mattina alle 4, lunedì mattina, quindi la domenica mattina praticamente, lunedì mattina alle 4, alle 7:30 ero già in Saras, in stabilimento, e rientravo, dovevo rientrare il venerdì, ma quando il capocantiere ci diceva, i trasferiti, vi volete trattenere anche sabato, c'è un tot in più, perfetto, mi trattenevo, non rientravo neanche, quindi stavo da lunedì a lunedì fuori, quindi di cosa siamo provvedendo? Sacrifici ne abbiamo fatto come li hai fatti tu, e ciò che li hai fatti e stai continuando a farli, perché ciò che fai non è un lavoro da impiegato, ma un lavoro da impaccati di Cina, e sta in mezzo al freddo e al gelo tutti i santi giorni, e al caldo d'estate, perché lo conosco, quel lavoro, e lo sai. Quindi ti ammiro per quello che sei e per quello che hai fatto, ma molta gente alla tua età, credimi oggi, credimi, si gratta nelle balle della manzana d'Algea, e ai Zetani, Luigi Tisetti, Rubrimo di Romesi, Ben Grancini, Abissione, roba per la mamma, parassiti. Chi sei l'educazione? Qual è l'educazione? Va bene signore, io vado a cenare, gli faccio una buona mesi, tagli affetti, cambio le quattro chiacchiere con mia moglie, non l'avevo tutto il giorno, non l'ho visto tutto il giorno. Dai, ci sentiamo domani ragazzi. questa discussione mi piaceva, vai. Va bene, ciao Cla, ci sentiamo. Ciao a tu, alla prossima, ciao e buona notte a tutti. Ciao Eugenio, ciao, un abbraccio. E questi sono discorsi che ogni tanto bisogna affrontare purtroppo nella vita, perché è troppo facile dire tutto va bene. No, no, no, no. Nel contesto ci sono cose che vanno anche male e ne abbiamo discusso stasera con Giulio. Avanti Antonio, per i saluti a Eugenio. Ah, saluto Eugenio, ci risentiamo alle prossime. Avanti Cla. Sono rientrato io. Ehi, ma tu sei alle 13, non è che puoi stare così, Un operatore radio deve stare secco e fresco. Ma quando vuoi fame, è fame, sono arrivati i panini. Lo so, però non è che devi andare a mangiare, poi dorme, non va bene così. Adesso io fra un po' vado a cenare, non panini, ma c'è mia figlia a casa, abbiamo fatto un po' di specialità. Va bene, Roberto, ok, avanti, altro per Roberto. Capa, saluto di Roberto. Capa, buonasera a tutti, dai. Ehi Claudio, diamone poco di chi si mandroni, che vengono a lavorare. Io guarda, sempre lavorato, però anche lavori extra, per lavorare, cioè io vado a lavorare, però voglio una cosa, voglio ridinare. Così è la mia frase. Se tu mi dai i soldi io mi sto zitto, lavoro zitto, non rompo le scatole. Cazzo trovami tu lavoro che vai a lavorare e non ti pagano. Allora me ne sto a casa. Ma quello è una negligenza imprenditoriale. Cioè se mi vuoi lavorare mi devi pagare. È normale. Capito? Ma il discorso era ben diverso da quelli che vogliono andare a lavorare e però sono sfruttati e non vengono pagati, quella è un'altra cosa. Ma dal dire al fare c'è di mezzo al mare, c'è anche quella gente che non ha proprio voglia di andare a lavorare e che vive facendo il parassita a casa dei genitori, capito? Senza far nulla la mattina alla sera e mantendosi burro, capito? E mantendosi burro, e lì è tutto il problema, ti conosco, non ne avessi ora a conoscerti tu, sei un grandissimo lavoratore per l'età che hai, hai sempre lavorato e stai continuando a lavorare e ti pacchichina la mattina alla sera, ben vengano persone come te. Roberto che da ragazzino dentro l'officina dove il padre ha dato il sangue, capito? Povero Giovannino ha dato il sangue lì dentro per fare che cosa? Per dare un mestiere ai figli e per dare un'attività ai figli. Quelle sono persone valide, non come certa altra gente, tutto lì. Questo stavamo parlando noi con Giulio, a prescindere da poi le cose personali, ma il discorso era questo. Vai Roberto. Ehi, appena mi dimentichi che quella persona è venuta a prendere qualcosa tra. Ah, molto bene, allora mi contatterà per darmi l'esito di quel, ma gli ho detto non mollare le tue cose per fare quello, no, non ci sono problemi. È giusto per capire, perché anche lui voleva capire e vedere come cavolo hanno fatto, perché è un peccato, non lo nuovo, e lasciarlo da parte mi rompe un po' le scatole, come vedi, visto? Abbiamo speso 85 euro per comprare un altro microfono quando ci avevo già quello lì, però lo facciamo funzionare con il 757, quello che se le dà qualche tocco magico quella persona lì e vedrai che funziona benissimo. Vai Roberto. Via, questo cos'è? Nuovo microfono? Sempre quello che mi hai comprato tu. Va benissimo, tranquillo. Vai Alto. Kappa, sì, no, già va bene. Ma io non è che ti volevo dire, io già lo sai, non è che so fare solo il bombolaio, no. So fare anche altri lavori so fare. E grazie a Dio ho imparato anche in fretta. Adesso da poco ho imparato anche a saldare con la soldatrice. E già mi applico già, ma già contro la gabbiuria in occhi che perdeva. E me l'ho aggiustata io, non perde più. E io mi applico molto sul lavoro. Poi già lo sai che a me mi piace la musica. E mi piace molto pure. Allora, sabato devo fare un compleanno di 18 anni e via. A me mi piace. Ma lo mentre lui, in giallo o in rosa? Questi voi, mulla. Ti piace veramente di seminanza, non trovagliavi 40 anni, non fate pure tutto il suo stabilimento, peggio di me. Ciao Fra, buonasera, vieni avanti, io Antonio e Roberto. Ecco. Grazie, ciao, non sono io. Grazie, grazie. Sì, ciao Franco, ben sentito, vado. Buonasera Franco La Sorso, ben sentito. Ciao. Lo sono tutti qua. Che non credo quasi ne visto. Non so se state ascoltando, ma c'è un discorso veramente pazzesco, ma allo stesso tempo interessante per quanto riguarda il contesto generale, perché veramente a me mi fanno schifo queste persone, fra. Forse perché, ti ripeto, ribadisco, io sono stato abituato dai miei genitori a lavorare da ragazzino, a dare un valore sia alla vita che al denaro, però ci sono certe persone che a me veramente mi fanno schifo. L'ho detto poco fa, lo ripeto un'altra volta, mia figlia al bar non è riuscita a trovare persone da poter fare qualche extra il sabato e la domenica, a chi, cioè, perché hanno il reddito di cittadinanza, perché non vogliono andare a lavorare. Che gira, Madueuga? No. No, è vero, perché non si trova neanche moratori, non si trova più nessuno per quel motivo. Purtroppo è così, è come ci possiamo fare. E vabbè, ma finirà anche quello qualcosa, no? Vabbè. Purtroppo è così, c'è tanta gente che vive di piace vivere alle spalle e purtroppo stanno aumentando, ma è una cosa vergognosa. No, Anto, avete l'aria che devi vestire da donna. Guarda che io quando mi vesto bene, sono tutto branciato, ho le camicie, non è così, no. No, ma lei vuole una donna, capito? Una ragazza, quindi se ti vesti la ragazza, ti metti la parrucca e poi già va bene. E cosa non avete pegato, mamma ragnosa? E allora no, mi sciobare di donne, ragazze belle, capito? Niente uomini, ha detto già basta chi vede tutta la vita. Dietro al banco ci vogliono personaggi, donne. Ma è vergognoso, l'ho sentita io, era anche incazzata. Ma persone che conosce, qualche amica, conoscente, cioè, chiamata, scovina, lavorare, c'è la domenica, mi serve una persona in più, sta aumentando un sacco di lavoro. No, mi basta, no, tutti con un reddito di cittadinanza, vergognoso, ragazzi. Purtroppo è così. Guarda, io ho un amico, adesso è andato in pensione quest'anno, stava cercando tre mesi, stava cercando dei muratori e dei monopoli, non ha avuto un piazza, e zia di tutti, no, e la bella fatta, me l'ha già fatta. E tu dici, la gente va nuda, capito? Parassiti di merda, ma vedrai che il governo piano piano riesce ad avere qualcosa che può far male a qualcuno, tu vedrai, perché non può continuare così, assolutamente, c'è l'imprenditoria che è in rivolta, capito, rivolta contro il governo, perché non si può, cioè mica per la stagione estiva, è stato quest'anno un problema a trovare personale, ma me l'ha detto mia figlia che è nel settore, papà, credimi, ma un grande casino per trovare personale, capito, addirittura tra di loro, ma non è che tu c'hai uno in più, non è che conosci, cioè girandosi tra di loro per tappare da una parte all'altra, perché non ci voleva andare nessuno a fare la stagione, nel modo più assoluto, a chi so pagarli a casa senza vannuta. È questo che a me continua a farmi dire che ci sono troppo parassiti in giro. Vero, ecco. Noi, sì, hai ragione. Però saluto a tutti, però basta pagare la gente va. Purtroppo abbiamo gli stipendi bassi, Claudio, quindi uno dice per quel prezzo io non ci vengo, però se ti metti d'accordo e paghi diversamente, allora chiudo un occhio. Anche questo è un discorso validissimo, hai pienamente ragione. Anche questo, perché l'ultima volta che hanno intervistato a un imprenditore, appunto, che ha una catena di alberghi, non uno, una catena di alberghi, qualcuno anche in Costa Smeralda, ha ribadito proprio questa cosa. Dice chiaro che non è l'arena con Giretti. Ha detto non è il problema del reddito di cittadinanza, ok, perché questo ha deciso il governo per aiutare determinate persone, anche se sta aiutando il popolo in generale, anche gente che non lo merita, gente che potrebbe veramente non prenderlo, però non andiamo su questa linea, andiamo sulla linea che l'imprenditoria, tutti gli imprenditori devono capire che se uno prende 800 euro del reddito di cittadinanza e tu le dai 1000 euro per fare 13 ore al giorno, è chiaro che non ci viene. Se tu le proponi 2000 euro al mese, 1800 euro al mese per fare 12 ore al giorno, perché negli alberghi è così, lo sai, no, che funziona così, ok, soprattutto nel periodo d'estate, allora può darsi che quello molli. Ma se tu le fai un contratto quadrimestrale, no, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre, o di 4 mesi o di 5 mesi, e gli dai 800 euro al mese, io non ci vengo a lavorare. Questo è normale, hai toccato proprio un tasto giusto. Anche lì si potrebbero un po' mettere d'accordo e dire sì, ok, diamo qualcosa in più, diamo uno stipendio più adeguato a chi ha reddito di cittadinanza da 800 euro, se io ne do 1000 non ci viene, se ne do 1500 vuoi venire a lavorare, magari quello molla. Però allora adesso posso un attimino? Vai. Il problema è questo, il problema ci sono anche questi approfittatori, che se devi fare per esempio 12 ore di lavoro, te ne va 20 ore di travaglio. Cioè, prima di tutto, qua in Italia ci dobbiamo mettere a posto queste cagate qua, dobbiamo essere tranquilli con queste codipendenze, però che la gente ne ha voglia poi andare a lavorare. Guarda, credimi, per tutte le ore che faccio, paghisco chi piglio, molte volte me ne voglio stare qua, però tocca andare perché ne ho bisogno, però tocca farlo per forza, perché guarda, fai tutto il giorno a righe di bombole e tu rendi a casa cazzo burattini appesi, credimi. Non è una cosa bella, certe volte ci sono anche addolori, non è una cosa bellissima, Scusa tu, riprendo io e poi faccio girare perché non so neanche chi c'è. Allora io la colpa sinceramente, tra virgolette, pure la do un po' anche a te, perché io ti posso parlare di me stesso e non degli altri. Quando mi hanno chiamato a colloquio di lavoro, ecco bene, a me mi sa bene anche la paga sindacale, però ti voglio dire una cosa, che mezz'ora faccio, mezz'ora mi paghi, un'ora faccio, un'ora mi paghi. Ma ti chiedo l'esizione già dall'inizio, e quindi se tu mi dici che mi devo trattenere perché c'è da fare quello, molto bene, disponibilissimo, però io dalle 5 in poi segno straordinario. Questo è poco ma sicuro. Poi se tu hai un contratto differente o hai parlato diversamente mentre hai fatto il colloquio, allora abbasso le mani, come ti dica. Io ti dico quello che ho stabilito io, quindi per me va bene, sia la paga sindacale, con la tredicesima, quattordicesima, con gli assegni familiari, per la quale, però nel momento che io faccio 30 ore, 40 ore in più, tu mi paghi, se no, e poi ricordo una cosa, che la ditta non la fa il titolare, ma la fa la gente che è col titolare. E qua chiudo, fai girare Claudio perché non so chi c'è. Sì, ma è giustissimo ciò che ha detto Tino, perché anch'io, vabbè, io non avevo nessun accordo perché sono entrato e lo stipendio era quello, è chiaro che avevo tutte le mie indennità rischio, indennità di guida, indennità lavaggio indumenti, indennità di mensa, quindi era tutta una cosa a parte. In più è chiaro che io facevo 6 ore e 40, però io entravo alle 7 e uscivo alle 2 meno 10, quindi 7 estate, come capitava a me il mio dirigente, perché avevo ogni settore aveva il dirigente, il mio dirigente mi diceva: Claudio, le va di farsi qualche ora in più perché alla Marinetta, a Paduletta è meglio tenere la zona sotto controllo? Perfetto, però non ci sono problemi. Però le ore che facevo io ce le avevo in busta paga, quindi ci sono stati mesi d'estate che io raggiungevo addirittura quasi più dello stipendio lo straordinario, perciò è così, è chiaro che i contratti sono quelli, tu mi paghi, io sono contento, vengo a lavorare sorridente, ma ma il discorso che avevamo ti è che se io vado a lavorare e tu non mi paghi, e allora è quello sfruttamento, ho capito, non si può più parlare di uno che non ha voglia di lavorare. Cazzo, come, io ho voglia di venire a lavorare perché sto lavorando, ma se tu a me non mi paghi, a me mi ne passa la gana di travagliare. Ho reso l'idea, vai Roberto. Sì, quello è vero, assolutamente d'accordo, però c'è da dire una cosa, bisogna vedere anche l'altra faccia della medaglia, perché i ragazzi, molti di questi